Prodi di fondo scala, allo Twitter qua. Giulio al secondo posto e Gianni doppio numero al terzo posto in classifica allo Twitter. Riccardino. Riccardino il quarto. Quindi che premio c'è per il primo? Un mongolino d'oro, già ci abbiamo. No, guardando un po' di campione, tutto il profondo scala, dove il massimo vanto carne di cantore, Giulio secondo, terzo, Gianni Gottirupo qua nella zona di intervia e più alta di Salerno. Quindi ho fatto una piccola classifica per dramatizzare. Ecco. Mega è arrivato il più forte di Sassari, avanti, torre di controllo. Forte l'accetto, buongiorno e buona giornata a tutti. Volevo sapere se c'era Tino Muscolo in ascolto per caso. Io non l'ho sentito, avanti, che allora Giulio l'hai sentito? No, non è entrato, perlomeno se non è all'ascolto qua non è entrato su questo. Sì, aspetta, toglimi una curiosità, Claudio, tu hai dato un colpo importante poc'anzi? Assolutamente no. Quello che vi sta chiamando e che non lo chiamate per nome non entra, è Antonio Riserva. State attenti ai segnali e alle voci. Va bene, allora se non c'è Tino continuo a fare quello che sto facendo. Buona giornata a tutti e alle prossime. Ciao. Claudio, Tino sta venendo qua a casa, devi dire qualcosa? No, volevo chiederle una cosa, ma al limite allo telefono, Gianni, grazie. Ok. Grazie già. Ok, ciao Cla. E si vede che oggi era a fare, se non saresti entrato a farci compagnia, va bene, ci aspetteremo. Sì. Dimmi una cosa, Antonello, di segnare come arrivo io, perché visto che mi hai incuriosito poc'anzi. Allora, mi presente anche questo Twitter qua. Diciamo la parte rossa sul lato sinistro, qui il calcegnale, il contrario, no? Qui fa vedere, qui il massimo è 9,20, dunque nel più grande 9,20, fondo scala, e tu arrivi alla penultima attacca, 9,10, e poi scendendo, Gianni, e ultimo. Dunque per me. No, va bene, lo stesso 9,20, anche noi il massimo a venire. Questo indicatore ci siamo. Diciamo tu sei inferiore di una tacca confronto a Roberto. Sì, beh certo, ci mancherebbe altro che io fossi superiore come segnale a quello di Roberto, capita. Allora gli avrei detto a Roberto, gli avrei detto Roberto, butta via tutto. Roberto, non ti sembra che avrei dovuto dirti così? Sì, quello sì, è normale. I punti, diciamo, io sono di fronte, sì, è normale. Giulio mi fa 10 al vero verso giù, verso Porto Torre, tutte quelle zone lì, Sorso mi schiaccia, però qua Alghero e tutte quelle zone io le faccio benissimo perché sono aperto completamente, io le vedo. Da Alghero vedo capocaccia, dal mio coso vedo capocaccia, dal mio terrazzino. Antonè, ma bisogna tenere conto anche dei fatti che stanno usando, E hai tu cazzo che la tenne, proprio tu parli già. Infatti la prova più bella sarebbe uscire così, tanto per giocarti un po', con le abbasse di apparati, dunque, quattro e passo a termine di legge, e poi da lì si vede la differenza, assolutamente sì. Poi in questo momento io sto uscendo con 3,5, non di più, basta dell'apparato, in stazione mobile. Io con l'Ove. Adesso che ti sei abbassato. Gianni, quanto ti sto arrivando io? Sta arrivando con tutti i fatti che già finito. E che vatto già uno? Voi siete fissati, io vatto non ne uso, siete convinti che usi chissà che cosa. Mi già l'ha visto Claudio, già gliel'ho fatto vedere io con cosa è sto Claudio. Però la controprova si può fare come riceviamo il segnale, guardate quanto ricevete il segnale e ci rendiamo conto come funziona la posizione, perché io posso mettere 100 watt, tu ne metti 50 e arrivo più forte io. Però guardiamo i segnali in ricezione, da lì si vede la qualità di una stazione secondo me. Quanto ti arriva Gianni lui e da Rossi? Allora ripeto, tu sei l'ultimo indicatore in fondo scala, ok, Giulio arriva penultimo, Gianni penultimo, terzultimo, ok, alla fine così sta andando a calare, ecco, non tieni presente questo indicatore, vediamo tra virgolette per buono, ecco, alla fine. No, ho fatto una domanda al contrario, quanto arrivi tu a loro? Tu qua arrivando quasi alle 9 più 10. Allora quanto le arrivi? Per dire, diciamo Gianni, quanto ti arriva a te e a Tonè? A me 9, a me arriva 9. Giulio, quanto ti arriva a te? Gianni. Giulio, quanto ti arriva? Sì, Antonello. Antonello mi arriva 7,8 quasi modulate. Quasi, senza quasi, modulate, 7,5 modulati 8. Ok, infatti lì dobbiamo fare il rapporto, visto che lui ha per tutti e tre la stessa potenza, vogliamo vedere chi è che come riceve lui, come riceveva lui, e poi di conseguenza poi ti fai i conti con la potenza che stai radiando tu, perché se ne metto 10 e tu ne metti 10 lo stesso, io arrivo più forte di te, comunque perché c'è un segnale di ricezione più forte, lo ricevo più forte. Vabbè, perché c'è l'altezza, diciamo, sei in zona più alta, normale, sei più vicino a un... Infatti quello è il discorso, anche se io metto un watt sicuramente arrivo più forte di voi, vabbè un watt non lo so, ma con due watt arrivo più forte di voi perché ce l'ho di fronte io. Scusate un attimo. Avanti Natale. Passa canale 20 per cortesia. Sai cos'è anche, vabbè, la posizione, certo, io ne sto usando quasi 12, ne sto usando, per cui, però c'è da considerare questo, probabilmente la mia posizione rispetto a Usi è migliore di quella di Gianni che nonostante che lui abita a Sassari, è con un palazzo molto ma molto più alto di dove abito io, sarà per quello, è senz'altro anche una questione di posizione, oltre che insomma tutto influisce, tutto. Dai, Robe. Certo, naturalmente, anche l'apertura, vale, c'è un canale, lui adesso è messo dalla parte più aperta, vale, verso Monteoro, quelle zone lì, se vale si sposta dall'altra parte di Ussi, vale, tu perdi e Gianni guadagna, diciamo contano molto le posizioni, ma ripeto, dalla parte mia tutta la zona di Alghero, Ittiri, Ussi, Usini, ce li ho di fronte, vedo tutto perfettamente. Ripeto, la zona più scaccina per me è tutta la zona di Castelsardo, Badesi, di lì, io sono chiuso, mentre voi probabilmente siete molto più forti di me. È sempre una questione, comunque quello che conta è sentirsi bene chiaramente, senza soffrire ascoltando, senza metterci l'orecchio sull'altro parlante della radio, e va bene sempre, poi 5 punti S in più, 5 punti S in meno, che se ne frega. Visto, adesso ti ricordi quando abbiamo fatto DX insieme, avevamo né più né meno gli stessi segnali, uguali, identici, e così con Gianni, anche avanti ieri con Gianni, io l'ho chiamato sul canale 20 perché lui era sul 10, l'ho fatto spostare sul 20, abbiamo fatto un'oretta di X insieme, avevamo sempre gli stessi segnali con quelli di Torino, di Ancona, di Rimini, del sud Italia, insomma dappertutto i segnali erano sempre quelli 8-9, 9-10, 9-20, 8-9, 9-10, 9-20, sempre così, naturalmente con QSB è ovvio, ma trattandosi di propagazione è ovvio che c'è QSB, però diciamo che in linea di massima i segnali erano anche abbastanza stabili rispetto ai segnali ad esempio che arrivavano da fuori, anche abbastanza stabili. Vediamo se è diventato Riccardino. Riccardino, adesso sono tornato, tu secondo me mi stai spiando. Allora quando tu rientri devi abbaiare, se no noi ci dimentichiamo di te. Prova ad abbaiare se ci sei buono. Aspetta, facciamo il temperatore, lo abbiamo parcheggiato. Antonio, avanti. No, no, vi ascolto, per carità. No, niente, vi volevo condividere che non è male fare una chiacchierata alla radio, finita in macchina, all'aperto, senza nessun rumore, come della natura, una meraviglia. Molto più libertà. Alla fine non è male, intanto fare qualche chiacchierata così, all'aria aperta. Poi, c'è una bella fresca, non c'è tutto questo sole, sta creando una bella aria fresca, è piacevole anche dalla macchina, ci vuole macchina. Sì, è piacevole, niente da eccepire. Giulio, una domanda, tu con cosa ascolti? C'è la tua parata del ferro o la tua parata dell'apparato? Sì, direttamente dall'apparato. Non è che ho tanto posto qua, io il baracchino me lo sono messo in camera da letto, in questo momento ce l'ho sopra il comodino, sia la radio che il microfono, perché preferisco stare qua, avendo la casa più ribelli, quando io devo modulare salgo su così non disturbo a casa, perché magari a casa c'è la televisione accesa dalle 8 del mattino sino alle 2 di notte, e se parlo al baracchino disturbo anche chi guarda la televisione, cioè avrei disturbato, invece così sono isolato, solo, ognuno si può dire che ha le sue comunità, così io non disturbo quando guardo la televisione, soprattutto quando c'è mia figlia che lavora, e come faccio? Non è che mi posso mettere a parlare, magari mia figlia sta lavorando al computer, cosa sta facendo, cose serie, io invece mi sto giocando, non va bene. E allora mi sono isolato nella camera e trasmetto da qua. Anche se potrei mettermi sul mansarda, che c'è tutta la mansarda per conto proprio, ma non l'ho mai fatto. Anche perché qui mi conviene, nel senso che se sono stanco mi sdraio e posso parlare anche da sdraiato o robe. Che io vai di fare la seconda stazione in mansarda, tipo Salvatore Maestrale, te lo dico, ce l'avevo in mansarda, di lì, dove stai aperta la testa, se no ti sbattevi un capo, non rompevo le scatole, solo che c'era freschetto d'inverno e caldo l'estate. Bene, in quel RX che è arrivata mia madre che dobbiamo usare l'idropulitrice per la piscina, quando rientro batto un colpo. Ok, vai Giulio. Ok Riccardi, va bene, facciamo girare intanto. Tenete in considerazione anche che Antonello Barracuda sta uscendo con l'antenna magnetica, sta uscendo tra l'altro, se avesse avuto l'antenna fissa e magari ha anche la possibilità, volendo, di utilizzare un piccolo aiutino, perché lui ce l'ha sicuramente, andrebbe anche meglio. Invece sta uscendo così normalissimo e devo dire che qua mi arriva benissimo sia di radio che anche di segnale, perché è discreto, Santiago 8 e la radio è ultima, per cui non c'è problema. Va bene, avanti Antonio. Calmami, già lo sa Roberto, lo sto utilizzando, poi ti ricordi che ci va malissimo anche in modulazione col suo microfono originale, perché è tale giro. Allora abbiamo fatto, diciamo, una modifica, ho abbassato questo microfono, ho cambiato le connessioni e lo sto utilizzando. No, va tutto bene, ti parlo. Non è male, faccio il porco lavoro, dai, che solamente la M, lo 2F, 40 canali, minima e alta potenza, basta, e finisce tutto lì. 1977, dai, quei paradigmi, anche sapendo che il sistema va tracolla con la sua antenna e lo porta lì, dai, anche perché è campagna aperta per una piccola chiacchierata. Mi sono divertito tutti a darmi, su di sì, dai, quella fine, che avrebbe andato male. E poi giustamente, come dice Giulio, sto giocando una piccola magnetica, ma diciamo la parte magnetica, se non sbaglio, è 30 cm di circonferenza, dunque non è molto grande alla fine, però con il cavo di 4 metri, come mi ha consigliato Giulio, e qui sono 1 e 2 fisso di stazionare, non riesco a passare più di tanto, anche allungando lo filo, dunque va più che bene 1 e 2. Questo è il massimo che posso fare. A voglia, 1 e 2 è un ottimo rapporto, dai. Ok, una magnetica va a base di 30 cm, un po' esagerata mi sembra 30 cm. È piccolissimo, cosa vuoi che sia esagerato? Ma 30 cm è la base di diametro, quanto un disco, un LP? No, aspetta un secondo. Ecco, 30 cm quanto un disco, un LP a 33G. Se fosse un magnetismo da 30 cm, io, vabbè, tu immaginati con le gru, con la piastra magnetica che tirano sulle macchine, più o meno si potrebbe fare anche quello nella macchina di Antonello. Sì, vabbè, forse intendeva in altezza, non lo so, vabbè, adesso ce lo spiegherà lui. Avanti Natali. No, c'è spostato con Gianni. Ma che immagini, si sono spostati, ma quando mai uno non deve prima fare un rapportino, ho bisogno di spostarmi, eccetera, eccetera. Ah, te le immagini, vabbè. Ma quando rientrano saranno multati tutti e due, Aspetta, stava parlando anche Antonello, cos'è tanto? Antonello, c'è notato pure. No, 30 cm è assurdo, cioè una base magnetica, anzi ha detto che è piccolina, allora quella grande quanto era, un metro, sarà massimo, posso dire, 8 cm, quanto può essere una base magnetica? 12, anche da 14 so che ci sono, poi ci sono anche le basi magnetiche a tre magnetismi, con tre cose, no? Praticamente, quella è micidiale, quella che attacca veramente bene. E lui non lo so che tipo di di base magnetica, ma suppongo che almeno da 12-14 cm ce la va, senz'altro, forse anche 15, se no come fa? Da 8 cm mi sembra un pochino troppo leggera, perché quando ti metti in movimento magari il vento è capace che te la stacca. Vabbè, tu mi dirai, ma basta camminare piano, sì è vero, basta camminare piano e potrebbe anche resistere, ma se metti soprattutto l'antenna lunga, come ad esempio sta usando la Turbo 2001, mi sembra che sta usando, e allora il discorso è diverso. Vabbè, magari quando si mette in movimento mette quella piccolina l'antenna, allora va meglio. Vabbè, dai, vediamo un po' quanto è. Sì, sì, adesso l'ho affrontata, scusami, dovrebbe essere 18 centimetri da diametro, è piccolina, non è più grande. Anche 18 è bella grossa, beh. Non lo so, poca per una circonferenza da 10, mi sono proprio tipo da 10, per farmi il palum, sì, dare 15-18 centimetri di diametro, sì, sì, assolutamente sì, non la vedo più grande. No, perché ti è presente un LP, un disco a 33 giri e circa 30 cm di diametro. La circonferenza per il tubo che ho preso a casa è molto più grande, circonferenza. Comunque non ti giuro bene quando ricendo, però fare questi figure di merda. No, c'è problema, non ti preoccupare, è soltanto una puntualizzazione, ci mancherebbe, dai. Ok, vediamo se sono entrati sia Natalino che Gianni doppio rum. Avanti tutti e due, uno per volta è meglio, così non vi sovramo durante. Vai Natalino, non c'è, Gianni, neanche. Vediamo se nel frattempo qualcuno ha necessità di farsi due chiacchierate o preferisce fare l'orecchio di porco, come diceva Mario Masse. Avanti sul 10. Asco, io sono qui e che non potevo rispondere perché stavo cercando il patentino del VHF marino e non lo trovo. Boh, chissà dove l'ho messo. Se l'avrei venduto alla Feduno, qualche pirata come pecca. E perché me lo dovrei aver venduto? Ai ai ai, mi fa male la schiena. Chi c'è avanti? C'era qualche altro che stava a parlare. Boh, riprendi giù. Ok. Tornando Robè, al discorso dell'antenna magnetica, lo sai che una volta me la sono costruita l'antenna magnetica? E adesso ti spiego come. Avevo un altoparlante in disuso, di quelli un pochino granditi, no? Un altoparlante della macchina, che ormai era tutta quanta rotta, la membrana, eccetera. Dunque l'ho smontato e ne ho tolto la parte magnetica, quella della base, ne ho tolto. Ho preso un po' di quella colla a due componenti che utilizzavo io per il lavoro, che la compravo a sacchi da 25 kg erano, e c'era la colla e in mezzo c'era un'altra cosa che quando la mettevi si asciugava in brevissimo tempo. Avevo fatto un impasto, ho preso un barato, un contenitore e ho messo la calamita dentro, ho messo per l'altro parlante e ci ho fatto una gettata di coso, ti fu calci su, in poche parole. Poi alla fine, quando si è asciugata la colla, ma in brevissimo tempo, perché c'era un liquido che te la faceva asciugare in meno di mezz'ora, era già asciutta. Poi ho tagliato il barato, ho tagliato e mi è rimasta la forma, ecco, della calamita, eccetera, eccetera. Ci avevo messo tutto, anche il mozzo per attaccare l'antenna, eccetera, eccetera. E avevo l'antenna, l'antenna magnetica autocostruita. Naturalmente col tempo, siccome era un impasto abbastanza massiccio, cosa è successo? Che ha incominciato a fidarsi questa colla e poi una volta che si fila chiaramente allora non è più resistente. Per dire, no, come l'ho pensata o Robè. Sì, un bel lavoro. Il catalizzatore si chiama comunque, o attivatore nelle colle solo di componenti, lo usiamo in officina per forza per asciugare, è un attivatore che fa una reazione chimica e i cristalli di materiale si solidificano. Sì, era una colla appunto che si poteva usare con questo sistema qua. o perlomeno lo potevi anche lasciare asciugare, e si asciugava da un giorno all'altro, e da un giorno all'altro si asciugava ugualmente. Infatti l'indomani non, quella che avanzava non la potevi più usare perché si petrificava. Però se tu la volevi, se si asciugasse subito, mettevi un po' di questo componente qua, e nel giro di mezz'ora era già asciutta. Infatti quando dovevo fare, per dire, un incollaggio e mi serviva subito che asciugasse subito, allora utilizzavo quello. Da una parte si metteva la colla, dall'altra si metteva questo liquido, era una specie di liquido che tra l'altro è composto già, lo vendevano così da Giusti via 4 novembre, lo vendevano. Mettevi la colla, e se lo facevi in tempo a mettere i mossetti ti si asciugava anche la colla prima di riuscire a chiudere il petto o robè, perciò ti dovevi anche sbrigare, oppure incollavi e lasciavi asciugare tutto il giorno, allora andava bene senz'altro lo stesso. Ok, vai Natali. Non posso riprendere, dai, che sto facendo cosa? Ci sentiamo alle prossime. Va bene, ciao Natalia, allora dai, buon pranzo, intanto mi è una meno 10 circa, meno 12, e fra un po' chiaramente dovremo chiudere tutti. Avanti, dove? Aspetta, te l'ho perso, te lo farà, perché a me non più interessa, comunque. Sono costretto a prendere la macchina e entrare alla base, anch'io a fare carica batteria. Va benissimo. Dai, ci sentiamo stasera, perché non qua anche un poco. Stazione mobile, con una meraviglia qua, quindi mi ha perso una bellissima aria fresca, non se ne perde. Ti auguro buon pranzo, a tutta la ruota, ci vediamo stasera. Scusate, riprendo io, mi ha chiamato mia figlia, mi sono attaccato un secondino. Ciao Natalino e ciao Antonio, vai, eventualmente ci sentiamo stasera, avanti Giulio. Ok, ciao Antonio, ciao, a stasera. Va bene, intanto nel frattempo pensa all'antenna per la postazione fissa, così la puoi fare anche un semplice dipolomi con un cavo coassiale e basta, e va bene ugualmente, tanto lì all'aperto dove sei tu va più che bene, cioè nel posto dove abiti va più che bene. Ok, così è ora, mi hanno permesso di fare l'antenna magnetica, ma solo per il fatto che ho buscato questo altoparlante vecchio che non funzionava, e allora avevo utilizzato il magnetismo robe, e andava bene, l'ho tenuto per un po' di tempo, però poi col tempo la colla è cominciata a filarsi, come quando il cemento è troppo forte a cemento, no? Allora è cominciato a filarsi, ho detto, boh, basta, se la lascio così me ne cade da sopra la macchina, allora l'ho tolta e ciccia e basta, e l'ho buttata via. Sono sempre cose, esperienze, dai, fare queste prove è sempre interessante, dai. Ok, adesso anche io interrompo che devo andare a mangiare. Giulio, ti saluto, grazie della chiacchierata, naturalmente se coincide ci sentiamo stasera, dai, correti da parte mia, ciao, saluto anche gli eventuali amici qua in ascolto sul canale 10, ciao, ti lascio a te il mic per il finalino e poi ci sentiamo stasera eventualmente, ciao. Ok, ciao Robe, grazie a te per la chiacchierata, a stasera, dai, ciao, buon pranzo, ciao. Ciao Natalino se sei ancora all'ascolto, poi Riccardino se sei ancora all'ascolto, e Gianni se ci sei, non lo so, e forse anche Claudio. Salutoni a tutti, cuoriti per me per pranzo, ciao. Ma ciao Antonio, scusami, credevo che avevi già chiuso. Ciao Antonio, alle prossime, ciao. Tutti. Ok, ricambiato Antonio, buon pranzo anche a te, ciao, ci sentiamo, ciao.